c'è un punto fondamentale che sta alla base di una corretta gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che è innanzitutto la formazione e l'addestramento, garantire ai lavoratori l'applicazione corretta delle norme a salvaguardia della propria incolumità. Questa ditta, non so per quale motivo, probabilmente ha disatteso una procedura e un addestramento. Aggiungo purtroppo anche un atteggiamento culturale, purtroppo, che ha coinvolto lo stesso datore di lavoro. È chiaro che, pur non avendo elementi per poter definire meglio l'accaduto, sembra che non sia stata recepita o applicata una procedura essenziale, cioè quella di areare per esempio la cisterna prima di entrare a operare per la pulizia.